voce. Valerio Aprea legge La ricreazione è finita di Dario Ferrari. A 3 giorni dalla prova scritta ricevo un messaggio da Carlo. Ma partecipi al concorso? Sembra quasi un rimprovero. Oh yeah, rispondo. Voglio vegliare sul mio investimento. Ma perché non me l'hai detto? Mi avresti consigliato di non farlo. Certo! Stai tranquillo, Charlie, non la disturbo, la vostra bolognese. Non c'è pericolo. Ho qualche speranza di arrivare almeno secondo? No. Dimmi una cosa sola. A quanto mi quoti? Ma figurati se ti quoto. Sei nei vari ed eventuali. Posso stornare i miei 10 euro su vari ed eventuali allora? La tua puntata è invalidata. Mi ridai 10 euro? Carlo smette di rispondere. Mi scrive l'indomani. Guardati almeno Pragmatica del romanzo di Sacrosanto. E i miei 10 euro, insisto, è il prezzo del consiglio che ti ho appena dato. Poi si richiude in un silenzio che stavolta so che durerà almeno fino alla fine del concorso. Guardare Pragmatica del romanzo, in effetti, è tutto quello che riesco a fare. Nel senso che Carlo me lo consiglia quando mancano 48 ore allo scritto e in biblioteca a Viareggio, figurati se ce l'hanno. Mi tocca ordinarlo su Amazon e alla fine a quel tomo di quasi 500 pagine scritte fitte, l'opus magnum sacrosantiano, posso dedicare un pomeriggio e una sera, e la sera nemmeno tutta, visto che devo andare a recuperare il mio portafortuna da Dario, un mio amico ipocondriaco a cui serviva per non so quale esame medico, e finisce che passiamo la serata a cazzeggiare. Quindi, alla fine, di Pragmatica del romanzo riesco giusto ad arrivare a 3/4 dell'introduzione. Magari, mi dico, lo riprendo in mano nel caso mi ammettessero all'orale. Ovvero, probabilmente mai. I mozziconi delle dita di Giacomo Mattei, scarnificati da anni di un feroce rosicchiamento nervoso che ha ormai fatto sparire le unghie e svariati strati di derma, estraggono la traccia della prova scritta. Il grottesco. A partire da Bakhtin e Kaiser, delinei il candidato l'estetica del grottesco in un autore, una corrente o un'epoca a sua scelta. La trentina di presenti si guardano l'un l'altro con un'inequivocabile espressione di sbigottimento. La frase che viene mormorata a mezza bocca praticamente da tutti è «Che tema del cazzo!» Il che è innegabile, ma guarda un po', è precisamente il mio tema del cazzo, dato che nell'unico testo che abbia ripassato per l'esame, ovvero la mia tesi di laurea, c'è un intero capitolo dedicato al grottesco in Kafka. In virtù di questo, per puro caso, ho anche idea di chi siano Bakhtin e Kaiser, e quindi mi appresto a fare un ottimo tema, pensando a tutti i pozzi di scienza che mi siedono accanto, che vengono polverizzati in un istante dalla mia botta di culo. A giudicare dai voti dello scritto, però, il mio entusiasmo a caldo era meno giustificato di quanto pensassi. È andata benino, certo, senz'altro meglio di quanto ventilassero i pronostici della vigilia, ma non è che sia stato quel trionfo che mi prospettavo dopo la consegna del tema. Ho preso 27, un ottimo voto, ma non abbastanza da presentarmi all'orale da favorito. Agnese Camasta, la bolognese che il toto dottorato di Carlo dava a 2, ha preso un 30 bello tondo. Il che, direi, che la mette ampiamente al di fuori della mia portata, ma pure dalla portata di chiunque. Poi ci sono io, con il mio onorevolissimo 27, e a seguire 2 dei favoriti, Pierpaolo e Virginia, che hanno preso voti buoni, ma meno del mio, 26 e 25. Il che potrebbe, per un errore prospettico, far pensare che io parta in pole position per la seconda borsa di studio, 3 anni a 1200 euro al mese per studiare, mi ripeto, gustandomi il sogno prima che mi sfugga dalle mani, ma in realtà, se si sommano anche i titoli e valutazione della tesi, sono l'ultimo dei quattro. Per spuntarla all'orale, dovrei superare sia Pierpaolo che Virginia di almeno 2 punti, il che mi sembra onestamente impossibile. Già essere stato ammesso all'orale, comunque, è una vittoria. Siamo 4 su 30, il che mi proietta tra i migliori, cosa che raramente sono stato in vita mia. Non potrò monetizzare l'impresa passando 3 anni a studiare a spese del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, ma potrò uscire dalla mia esperienza universitaria a testa alta. È già una vittoria se uno sa accontentarsi. E io, modestamente, è una delle cose che so fare meglio, accontentarmi. Il 10 di novembre ci troviamo, noi quattro ammessi all'orale, in un corridoio del secondo piano di Palazzo Ricci, a fianco della stanzetta striminzita in cui hanno deciso di interrogarci. Io sarò il terzo, a quanto riporta il prospetto che hanno attaccato con un pezzetto di scotch alla porta. In quanto ex studente di questa università e di fronte a quella fior fiore di studentessa forestiera, mi vergogno un po' di questa sciatteria quasi ostentata. Per fortuna, ad alzare un po' il tono, arriva Sacrosanti, elegante e disinvolto, che prima di ritirarsi con i colleghi si ferma a salutare personalmente ciascuno di noi e dice una parola e mezza battuta a ciascuno. A me riserva un «Tu sei Kafka, vero?» in riferimento al mio tema, spero. Mi stringe la mano con una bella presa, ferma ma non soverchiante, sicura di sé e rassicurante nello stesso tempo. Il suo passaggio ha l'effetto di sciogliere la tensione. Ci mettiamo a chiacchierare. Mi bastano 5 minuti per capire che sono tutti e tre di un altro pianeta rispetto a me. E non mi riferisco solo alle nozioni che sciorinano in fatto di letteratura e critica letteraria, ma anche alla conoscenza approfondita della geopolitica accademica. In questo campo l'eccellenza incontrastata è Pierpaolo, il normalista pugliese che si è laureato con Sacrosanti e che a quanto pare ha preferito il dottorato con lui a quello in normale. Pierpaolo snocciola con mirabile competenza trame e sottotrame dell'Accademia Letteraria Italiana. Chi ha studiato con chi? Chi non sopporta chi? Chi ha rubato la moglie a chi? Chi ha copiato chi? Chi non va ai convegni di chi? Chi va ai convegni di chi, ma poi ne parla male in privato? Chi ha piazzato chi? Chi deve un favore a chi? Chi non può vedere chi, ma se la deve mettere via perché è troppo più potente di lui? Chi non ha speranze di avere un posto da chi, a meno che non si imponga chi? Chi ha stroncato la carriera a chi? Chi è dovuto andare all'estero per sfuggire ai veti di chi? Chi all'estero sta facendo la guerra a chi? Chi ha riportato il cervello in Italia per farselo maciullare dalle logiche di palazzo? Chi scrive un articolo per la rivista diretta da chi al fine di far sdebitare chi e aprire una posizione per chi mettendo i bastoni tra le ruote a chi? Quando i sistemi di equazioni hanno raggiunto le 5 incognite, ho smesso di seguirlo. L'affresco di Pierpaolo viene interrotto da Virginia, una ragazza pallida e taciturna che, a quanto ho capito, ha studiato soprattutto cose del Cinquecento, che approfitta di un secondo in cui Pierpaolo sta riprendendo fiato per chiedere alla bolognese su cosa si è laureata. Lei, in meno di 10 secondi, rivela la sua dimensione, intimamente soprannaturale. Anche se fino a un secondo prima sembrava una persona anonima, non appena apre bocca, diventa improvvisamente bellissima, con un fascino che, se non me ne innamoro all'istante, solo per non rischiare di contaminare la sua divinità. Ha una voce profonda che una lieve cadenza emiliana rende immediatamente simpatica. Ci racconta della sua tesi su Eros e Priapo, ma potrebbe parlare di qualsiasi cosa, dato che dopo 30 secondi siamo tutti soggiogati. E comunque ci mette poco a passare da Gadda a Breaking Bad, per poi dare alcuni giudizi tutt'altro che banali su X Factor e poi su Gali e su The Lady di Lori del Santo, senza farsi mancare una battuta sul modo in cui Grand Theft Auto ha rimodellato l'immaginario collettivo e relazionale dei teenager. Qualsiasi cosa tocchi lo fa con leggerezza, raffinatezza e acume, e sembra capace di nobilitare una serie o uno youtuber semplicemente nominandoli. In un attimo ci siamo scordati delle sordide trame accademiche che Pierpaolo svelava con grande competenza e ci facciamo portare per mano da Agnese Camasta su vette di erudizione alessandrina, per poi planare sul pop più ingenuo, da Bolaño a Lukaku e poi da Bello Figo a Berlioz. Io e Virginia ne siamo stregati e facciamo a gara chi ride più forte alle sue sottili e brillanti facezie. Pierpaolo cerca di inserirsi e di far vedere che anche lui ne sa, sia di cultura che di trash, ma risulta grossolano e artefatto laddove la bolognese è lieve e perfettamente naturale. Io sono sinceramente felice che sia lei a prendersi una delle due borse di studio e provo un certo orgoglio anche solo a partecipare al suo stesso campionato, pur sapendo che tra noi non c'è partita. L'orale sono chiacchiere. Le domande sono inconsistenti e servono giusto a far passare senza grossi imbarazzi quella mezz'ora canonica discorrendo come fossimo al bar, del percorso di studi, della tesi e di possibili progetti di ricerca. Tutta la commissione ostenta cortesia e dispensa sorrisi e io li vorrei prendere a schiaffi tutti e tre. Non fanno altro che confermare un vecchio adagio di Carlo: nessuna commissione che sappia il fatto suo lascia che l'orale decida alcunché. I giochi si fanno tra scritto e valutazione dei titoli. Un orale insignificante garantisce il mantenimento dell'equilibrio stabilito a priori, lontano da occhi indiscreti, che nel nostro caso significa il giustificatissimo trionfo della Camasta e la seconda borsa al solito Pierpaolo. Nella graduatoria finale, che appendono quel pomeriggio, sempre su un foglio A4 stampato storto, appiccicato alla bacheca con un pezzo di scotch, io risulto terzo, 3 punti sotto Pierpaolo e 1 punto sopra Virginia, primo dei perdenti. Un po' mi rode, ma è obiettivamente meglio di quanto potessi sperare. Pronto, Carlo. Marcello, sembra titubare. Dimmi tutto. Pensavo mi avessi bandito. Ormai il concorso è finito. Me la sono cavata bene, no? Senti, inizia. Il tono non mi piace. Oh, va tutto bene? C'hai una voce. La Camasta ha rinunciato. Ha vinto un dottorato in cattolica a Milano e ha mollato questo. Ma dai, dico. Poi mi rendo conto. Cioè, ho vinto. Hai una borsa, sì. La voce però è rimasta funerea. E non siamo contenti? Ma secondo me fai una cazzata a fare il dottorato. Non vuoi che segua le tue orme? È un mondo di merda, Marcello. Senti, Carlo, a me. Voi altri che dite che è un mondo di merda, ma ci state dentro, mi fate morire. A te, chi te l'ha detto di stare in quel mondo di merda? Raffaele non è per nulla contento. Ma, scusa, sei stato lui a farmi vincere. Non hai vinto. È che quella ha rinunciato. E io che ci posso fare? Sarebbe stato meglio che vincesse Virginia. E non potevano farla arrivare prima di me, allora? Ma infatti, io l'avevo detto. In che senso? Invece hanno preferito farti arrivare terzo, perché tanto sapevano che erano passati quei due, allora Virginia tanto valeva farla arrivare quarta, per non avere sul podio solo Sacrosantiani. Sacrosanti è uno che ci tiene alla forma. Se vinci, non c'è motivo di stravincere. Quindi io servivo solo a dare una patina di trasparenza. Oh, Marcello, ma mica pensi veramente di essere più bravo di loro? La Camasta è un fenomeno. Una che ha 20 anni ha tradotto Perec. E Pierpaolo ha pubblicato la tesi e 3 articoli su riviste di fascia A. Eppure Virginia, non importa che me lo spieghi. Lo so da me che sono scarso. Su 100 concorsi loro ne vincono 100 e io 0. Però in uno di questi 100 io arrivo terzo e la prima se ne va a studiare da un'altra parte, ferendo mortalmente l'ego di Sacrosanti. Ma io che ci posso fare? È andata così. È andata pure peggio. In che senso? Che quella è andata con Martesana. E chi è Martesana? Certo che non sai veramente un cazzo. Confermo. Martesana è l'arcinemico di Sacrosanti. Madò, questi che a 70 anni hanno gli arcinemici, manco fossero Batman. È tutta la vita che quei due trattano gli stessi argomenti e sempre dandosele di santa ragione. Wow, Cassius contro Foreman. Molto meglio, più sottile, più avvincente. Uno scontro in punta di penna che dura da 25 anni. Ogni volta che uno dei due pubblica qualcosa, tutti vanno a cercare le stoccate contro l'altro. Avvincente proprio. Oh, ma non sei te che vuoi entrare in questo mondo. E voi non mi ci volete. Non è che non ti ci vogliamo, ma è una situazione delicata. Ovvero? Pensaci. Sacrosanti doveva avere la mente migliore della vostra generazione, a parte che la Camasta ha 5 anni meno di te. 6 ha fatto la primina. Insomma, Raffaele era tutto contento perché doveva prendersi questo fenomeno e invece il fenomeno se lo prende Martesana e lui si ritrova con me. Esatto. Ed è grave. Vedi te. Valerio Aprea ha letto La ricreazione è finita di Dario Ferrari, a cura di Fabiana Carobolante, con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Jacopo De Bertoldi. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.